Elliot Lasky, una di quelle moltissime persone che durante gli anni 60, inizio anni 70, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in generale nel mondo occidentale, cercavano delle risposte che credevano la tradizione, la famiglia, la scuola non potevano fornire. E quindi questo figlio di una famiglia, diciamo così, tradizionale, ebraica di New York, si trova a lasciare tutto ciò e credeva di trovare delle risposte nella musica. Era un bravo musicista e entrò a far parte dei famosi Rolling Stones. Non era uno dei famosi, ma era uno di quelli che viaggiavano con loro e continuava a cercare la sua strada. Continuava a cercare la sua strada, ma non la trovava. E un giorno si trovò davanti a un edificio di Eastern Parkway a Brooklyn, l'ufficio e il tempio del Rebbe di Lubavitch, perché qualcuno gli aveva consigliato che forse lì avrebbe potuto trovare qualche risposta. Sapeva, gli era stato detto, che non sarebbe stato possibile sul momento fissare un appuntamento con il Rebbe, e allora decise di attendere sulle scale esterne dell'edificio, perché il Rebbe venisse da casa sua e l'avrebbe fermato in mezzo all'isolato, lì a Brooklyn, gli avrebbe posto le sue domande. E così questo ragazzo, Elliot Lasky, capelli lunghi, tutto giubbotto di pelle, eccetera, eccetera, aspetta il Rebbe di Lubavitch. Freddo, freddissimo nell'inverno di New York, e ad un tratto arriva la macchina, il Rebbe esce dalla macchina e dal Yiddish, la lingua Yiddish che lui conosceva da casa, Elliot Lasky vede questo uomo e dice: "Scusi, lei è il Rebbe di Lubavitch?" Il Rebbe dice: "Cosa ti serve?" E gli dice: "Vorrei porre una domanda." Il Rebbe lo guarda, lo fissa negli occhi e inizia a rispondere alle sue domande. E così, per 15 minuti, nel freddo, nel gelo, lui dice: "È come se non ci fosse nient'altro al mondo. Vedevo solo gli occhi del Rebbe e sentivo solo le sue parole." Gli pone la domanda: "Dov'è Dio?" "Dappertutto", gli risponde il Rebbe. "Lo so", dice Elliot, "ma dove?" Il Rebbe gli risponde: "Dappertutto e in tutto, in questo albero, in questa pietra, in tutto." "Lo so", dice Elliot, con gli occhi ancora fissati sugli occhi del Rebbe. "Lo so, ma dove?" E il Rebbe gli dice: "Nel tuo cuore. Dio è nel tuo cuore." E a quel punto Elliot si rese conto di una cosa che fino a quel momento non aveva realizzato. E questo fece fare a lui tutto un cambiamento nella vita, non subito, non immediato, ma graduale, come descritto da lui nel video di cui potete vedere che allego qui. Perché vi racconto oggi questa storia? Perché nella parashah di questa settimana noi leggiamo che HaKadosh Baruch Hu istruisce: "Ve'assuli mikdash ve'shachanti betocham", mi costruirete, costruite per me, scusate, costruite per me un mikdash, un santuario, costruiranno letteralmente, e io dimorerò a loro nel loro interno. Dove dimorerà? Nel santuario che costruirà o nel loro interno? I maestri dicono: loro costruiranno per me un santuario e io dimorerò all'interno del loro cuore. Di conseguenza, tutto ciò di cui leggiamo nella Torah, riguardo alle istruzioni molto esatte, molto minuziose, relativamente alla costruzione del Mishkan, del santuario nel deserto, è sempre rilevante. perché il luogo dove HaKadosh Baruch Hu vorrebbe, tra virgolette, dimorare, essere, trovarsi, vivere, è all'interno del nostro cuore. E la costruzione del Mishkan è per noi un'indicazione che perché HaKadosh Baruch Hu possa dimorare nel nostro cuore, che cosa serve? Serve che tutto ciò che è la materia con la quale veniamo in contatto, perché il Mishkan era costruito dalla materia, non dallo spirito, ma tutta la materia con la quale veniamo in contatto possa essere uno strumento, non un fine in sé, ma uno strumento per poter studiare la Torah e mettere in atto le mitzvot, ciò che HaKadosh Baruch Hu vuole. Quindi, in quel momento in cui Eliot Lasky poneva la domanda al Rebbe di Lubavitch, dov'è Dio? Il Rebbe avrebbe potuto girarsi verso l'edificio davanti al quale si trovava e dire, ecco, qui c'è un Beit HaKnesset, qui c'è un luogo di studio, una yeshiva, un Beit HaMidrash. Effettivamente c'era, ma non era questa la risposta. Il Rebbe gli disse, innanzitutto, Dio è in tutto. Non è solo dove credi sia scontato che si trovi, ma dappertutto. Ma soprattutto Dio è dentro di te. HaKadosh Baruch Hu e la Torah non sono limitati al Beit HaKnesset. La nostra vita ebraica non è limitata a quei momenti in cui andiamo al Tempio o andiamo a sentire, a partecipare a un evento o una lezione di Torah. La nostra vita ebraica è l'intero santuario della nostra vita, è un santuario nel quale HaKadosh Baruch Hu vorrebbe trovarsi. Basta aprirsi a Lui. Shabbat Shalom!